gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. I love Italy su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in rigorosa diretta sulle antenne di Double RMI. Ci potete sentire su tre frequenze, i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e anche i 5850 kHz. Vi invito a consultare il sito doublermi.net per essere informati sugli orari di messa in onda della nostra trasmissione. E ora apriamo ufficialmente il nostro rotocalco lingua italiana salutando un caro amico spagnolo, ma lo facciamo appena dopo il nostro jingle. Querida soggetto, se stanno escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. In apertura andiamo nella bella Spagna e salutiamo Diego García Díaz che ci ha ascoltato da Salamanca in Spagna. Diego è stato così gentile, sentite il rumore, perché mi ha mandato un bellissimo ricordino della sua città di Salamanca. Un bellissimo portachiavi particolare, molto bello, e poi mi ha inviato anche una piastrina, sapete quelle piastrine appunto da appendere nei vari elettrodomestici, molto bello, con su la basilica appunto di Salamanca. Ma non è finita qui, perché l'amico Diego García mi ha mandato anche una lettera molto bella, una cartolina, scusate. Mi scrive: gentile Andrea, muchas gracias por las bonitas QSL postal que me investe un cordial saludo. Diego dalla Spagna, scusate ma non hablo español, sorry, I don't speak Spanish. E poi questa bella cartolina ci ha scritto: ella es comunión riservada a su santidad contra cualquiera personas que quitaren de traiex de otro qualcuno modo de esta biblioteca. Poi continua, l'ho scritto, ma scusate, non parlo spagnolo, mi scuso per il pessimo spagnolo. Molto bella questa cartolina che ci ha mandato il nostro caro amico Diego García Díaz da Salamanca in Spagna. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. E ora iniziamo salutando tutti gli amici che ci hanno mandato dei rapporti di ricezione. Partiamo con Carlo Giordani da Azzone Val di Scalve, Bergamo, che mi ha mandato un messaggio WhatsApp al nostro numero 377-456-3033. 377-456-3033. Potete anche utilizzare WhatsApp per mandare rapporti di ricezione, perché scrive da fuori dall'Italia, ricordatelo, 0039. Carlo Giordani da Azzone Val di Scalve, Bergamo, mi scrive: ciao Andy, sono Carlo, settimana scorsa ho ascoltato meglio ed ho scoperto la tua trasmissione, ieri sera il segnale era un filino basso per un Sinfo 35443. Non ero del tutto preparato, così non ho potuto registrarti nulla, lo farò la prossima volta. Ascolto sui 15.770 kHz dalle ore 20.35 UTC sino alle 20.45 da Azzone Val di Scalve, Bergamo, dove ho una cascina in mezzo ai boschi, bellissima veramente, una cascina in mezzo ai boschi, pensate che bello, che relax, che pace, con NRD 545 e canna da pesca di 8 metri, quindi ci ha lasciato anche il suo identificativo da radioamatore. Inoltre mi ha inviato anche una bellissima foto dove Carlo è in mezzo al bosco che sta tagliando la legna, e mi scrive anche che mi manderà prossimamente una foto della presolina. La neve se n'è andata, ma è sempre un panorama spettacolare. Buonanotte, domani mattina si taglia la legna. Carlo Giordani da Azzone Val di Scalve, Bergamo, e noi abbiamo provveduto a mandare la cartolina QSL al nostro amico Carlo. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Prossimo amico, il nostro amico che ci scriveva dalla Cina, Ding Lun dallo Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Scrive spesso il nostro amico Ding Lun, lo ringraziamo perché scrive anche ad altri programmi di WRMI. Grazie veramente, caro Ding Lun, mi fa piacere che in Cina si possa apprezzare le trasmissioni di questo grande broadcaster americano. Cara Radio Miami, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01.15 fino alle 01.30 UTC, la frequenza è quella dei 5.850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea. E poi mi dice appunto il suo report, orario di ascolto il 3 luglio del 2024, dalle ore 1.15 sino alle 1.30 UTC, frequenza 5.850 kHz, apparecchiatura radio, Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo per un Sinfo 43434. Poi mi parla delle temperature estive in Italia e in Cina che sono molto simili, ed è molto gentile il nostro amico Ding Lung perché mi dice appunto di: caro Andrea, prenditi cura della tua salute in queste calde giornate estive, di idratarti bene e di, diciamo così, mi fa tanti in bocca al lupo per il tuo lavoro. Contraccambio, caro amico Ding Lung, in bocca al lupo anche a te e grazie ancora per averci iscritto. Era l'amico Ding Lung dallo Jiangxin, provincia, città dello Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。 E ora ci spostiamo invece in Germania, torniamo in Europa. Ci ha scritto Simon Peter Leher da Meisner, Germania. Ciao, sono Simon Peter, ho avuto il grande piacere di ascoltare il tuo programma I Love Italy via Double RMI. Purtroppo la frequenza era molto rumorosa, come puoi sentire ascoltando il file che ti allego, ma è sempre un piacere ascoltare i programmi di Double RMI sulla frequenza dei 15.770 kHz. Mi segnala che questa frequenza dei 15.770 kHz si riceve meglio alla mattina in Germania. Devo essere sincero, anche qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese la frequenza dei 15.770 kHz si riceve molto bene nella notte e anche nella prima mattina, come del resto in Germania. E poi mi dà una piccola chicca a proposito di Radio Miami: ho incontrato Jeff White in un incontro a Bratislava e Vienna qualche anno fa. Pensate un po', da ragazzo ascoltavo i programmi di Radio Health che appunto venivano ritrasmessi in Europa, niente di meno che, scoprite un po' da chi, da che radio, sentiamo, venivano ritrasmessi i programmi di Radio Health in Italia e in Europa anche da Radio Milan International 101 Stereo. On 101 in full FM stereo, this is Radio Milan International. L'amico Simon Peter mi ha ricordato questa grande radio italiana, Radio Milano International. La prossima volta faremo magari uno speciale. E mi diceva appunto che Radio Milano International ripeteva le trasmissioni di Radio Earth, che era una radio appunto che trasmetteva in Europa. E pensate un po', proprio Jeff, il nostro Jeff White, mi segnala il nostro amico Simon Peter che trasmetteva proprio per Radio Earth prima che acquistasse Radio Miami. Proverò di nuovo a sintonizzarmi sul tuo programma, mi farebbe piacere ricevere una tua speciale QSL card se è possibile. Cari saluti all'Italia. E poi aggiunge ancora: ciao Andrea, con grande piacere che riporto alla ricezione di Radio Miami, ascoltato il 29 giugno del 2024 alle ore 20:45 20:59 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz per un simpo complessivo 352 3-2. E mi dice appunto tutto questo: ho davvero apprezzato ascoltare Radio Miami. Se le informazioni di questo rapporto corrispondono al tuo registro della stazione, apprezzerei molto ricevere una cartolina QSL. Grazie mille per tutto e per aver letto il mio rapporto. Buona fortuna, Simon Peter Lehar da Meisner, Germania. Quindi noi abbiamo già inviato a tutti questi amici la cartolina speciale appunto di Radio Miami International. Noi siamo arrivati in fondo, cari amiche e cari amici. Ringrazio come sempre Jeff White per questa grande possibilità di trasmettere in tutto il mondo sulle onde corte e parlare italiano nei miei 15 minuti. Ricordando l'amico Simon Peter che ha citato la grande Radio Milano International, prossimamente faremo proprio velocemente uno specialino dedicato a questa grande radio italiana, si può dire la prima radio privata nascere in Italia negli anni 70, mentre negli Stati Uniti già negli anni 50 e 60 c'erano le radio private. In Italia l'emittenza privata è nata proprio nella metà degli anni 70 grazie a Radio Milano International, Radio Parma, poi ancora Radio Pavia, citiamo anche Radio Pavia, e anche appunto Radio Montecanate, che mi pare fosse la seconda radio a nascere in Italia. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo così. Io saluto ancora una volta tutti voi, cari ascoltatori, cara ascoltatrice. Prima di cedere la linea a Okeechobee in Florida, saluto come sempre Jeff, anche se l'ho fatto prima, e vi faccio sentire per l'ultima volta i mitici jingle di Radio Milano International. Bellissimi questi jingle, che tra le altre cose erano fatti negli studi di Radio Luxembourg, e la voce meravigliosa che sentite è quella di Benny Brown. Ciao da Andrea, alla prossima, un abbraccio, ciao. FM 101, non-stop music. It's Radio Milan International. FM 101, it's Radio Milan International. 101 Stereo. Radio Milan International. Radio Milan International Hit Parade.